Sono le 11:01 in questo momento e quindi cominciamo questo redazionale sulla cementificazione non solo dei quartieri romani. E abbiamo parlato durante la settimana, anche prima, dei vari progetti, chiamiamoli così, che si dispiegano un po' in tutta la città di Roma, due in particolare, il raddoppio della linea ferroviaria Roma-Formia che coinvolgerà, dovrebbe coinvolgere tre municipi romani, il sesto, il decimo e il nono, e anche la colata di cemento che si vorrebbe far piovere sul sesto e settimo municipio nell'ambito della costruzione di unità abitative o di servizi non meglio specificati, ma poi vedremo invece in realtà di che cosa si tratta, su tutta l'area del cosiddetto comprensorio Casilino, ovvero su quell'area ancora non edificata che si trova praticamente alle spalle della ancora non realizzata stazione di Teano della metro C1. Ne parliamo con i compagni del Comitato di Lotta del Quadraro che da diversi anni comunque sono attivi nella zona, non solo su questo problema. Invitiamo comunque chi ci ascolta a intervenire quando vuole per portare testimonianza, fare domande anche da altre zone di Roma, perché questo problema comunque non riguarda purtroppo soltanto questi municipi che ho citato. Allora, intanto salutiamo i compagni. Ciao. Ciao a tutti. Se prendo il microfono e l'avvicinate un po', ecco Ciao. Ok. Allora, a voi. Salutiamo i compagni. Ciao. Allora, dateci un po' intanto il quadro, la cronistoria di questo progetto, come è nato e quando diciamo, la popolazione si è interessata di questo problema e quindi come si sono organizzate poi le lotte. Ma proprio nello specifico di questa la bretella merci, a inizio maggio, quando sono iniziati a comparire dei cantieri sul territorio, subito le persone si sono allarmate. Che stanno facendo? Sono comparsi questi cartelli con tre indicazioni di tre municipi diversi per dei lavori per 210.000 euro. È iniziata un po' di mobilitazione e da lì a pochi giorni si è capito quello che stava succedendo, che erano lavori legati a questa bretella merci. Con stupore un po' di tutto il territorio perché non se n'era sentito parlare veramente da decenni di questa cosa, perché qualcuno si è ricordato, qualcuno l'ha scoperto che era un progetto di fine anni 70, inizio anni 80 fare questo pezzo di raddoppio lì dei binari. Parliamo, per chi ancora non l'ha sentito, non ha letto nulla di questa cosa, parliamo di un pezzo di Roma che va da Roma Casilina per arrivare. È la linea che va verso sud, verso Napoli. Sono due linee ferroviarie, una Roma Cassino e l'altra Roma Formia. E tutte e due, diciamo, hanno i binari che sono coincidenti a Roma Casilina per poi dividersi all'interno del Parco degli Acquedotti e andare poi una parte verso Gaeta e l'altra parte verso l'interno, verso Cassino. Praticamente questa bretella che vogliono fare sono un paio di chilometri di binari che nel loro progetto serve a liberare queste due linee dal traffico merci. Questo è quello che i proponenti di quest'opera, che è RFI, che ha dato il progetto all'Italferr, hanno comunicato fino adesso, cioè quello che è il loro progetto. E quindi dicevamo, si è iniziata la mobilitazione nei vari pe pezzi di territorio dove stava comparendo questi cantieri, per cui è comparso un cantiere a Via dell'Entoria a Quadraro, dopo qualche giorno sono comparsi dei cantieri all'interno del parco di Tor Fiscale, dopo ancora qualche giorno hanno iniziato i lavori dalla parte di Via Lucio Mario Perpetuo. E quindi c'è, in maniera anche autonoma, questi vari pezzi di territorio si sono iniziati a preoccupare, ci si è iniziati a parlare pure un po' di cosa stava succedendo. E si è un po' alzato un po' più la mobilitazione su questa cosa qui. Poi una serie di associazioni del territorio hanno fatto un incontro al Parco di Tor Fiscale dove è nato questo comitato 3 No, che praticamente è andato a proporre un incontro con i presidenti del municipio che c'è stato un paio di settimane fa a una scuola al Quadraro, e c'è stato questo incontro dove presenti i presidenti del municipio, presenti questi delle ferrovie, tanta gente di questi territori preoccupata di quello che stava succedendo, e c'è stata un'assemblea, diciamo, molto folcloristica, per cui c'era poca fiducia da parte delle persone del territorio, sia in quello che diceva Lidl Ferre, sia tanto più in quello che dicevano i vari politicanti arrivati là a iniziare la loro lunga campagna elettorale. Infatti è stata un'assemblea che, diciamo, ha anche fatto sorridere un po', perché vediamo proprio che quanto oramai poco si creda ai varie promesse di politici. Sono arrivati vari presidenti dei municipi dicendo, tutti quanti cadendo dalle nuvole, che non sapevano niente, quando poi invece c'è, cioè, dei municipi, almeno a livello tecnico, cioè, sono passate le carte, per cui o sei veramente un incompetente, e magari nel caso di qualcuno sì, oppure, cioè, fai il vago, fai finta niente per poi cavalcare la questione e farci una lunga campagna elettorale. Tra l'altro, una cosa che era emersa a più riprese, hanno detto, questo solo per arricchire il fatto delle bugie che dicono, che poi era emerso anche in questa assemblea fatta alla scuola Carlo Moneta, che loro questi lavori li fanno per favorire il traffico delle merci. E anche qui questa cosa è un po' ballerina, perché comunque il traffico merci su treno sta calando di anno in anno a doppia cifra, quindi sono cose che non stanno in piedi. Ma non solo, loro dicevano che in questo modo si migliorava il traffico pendolare, perché potevano aumentare i treni per andare a Cassino, c'era un treno molto più frequente rispetto a prima, lo stesso per l'altra linea. E questa cosa dall'assemblea, da parte di varie persone, è uscita fuori, visto che poi i giornali hanno strimpellato da tutte in queste ultime settimane proprio come il traffico pendolare vengano tagliati i finanziamenti, e come RFI abbia minacciato di tagliare, che dal 2013 mi sembra non ci siano più treni pendolari. Tra l'altro, la prima regione colpita è proprio il Piemonte, che qualche tempo fa leggevo su un giornale che appunto veniva fuori che già sono calati drasticamente i treni dei pendolari. Quindi una serie di montagne di bugie proposte sia RFI, che in un certo qual modo, essendo una società ormai privata praticamente, che vuole fare profitto a tutti i costi, continua a fare questo tipo di speculazioni. Anche tutto un meccanismo, no, di soldi che girano ovviamente intorno ai lavori ferroviari, cioè vediamo tutto il vaso di Pandora aperto dalla battaglia sulla TAV, delle varie industrie più o meno zozze, ma comunque puntano al profitto, devastando i territori, eccetera. Da una parte i danni che hanno fatto in tutta Italia sull'alta velocità, dall'altra parte una considerazione: in grossa parte d'Italia l'alta velocità hanno finito di costruirla, e quindi c'è stata tutta una massa di denaro, di opere, di ditte, di movimentazioni da rimettere in moto, e hanno ripreso probabilmente dei progetti anche vecchi, dei progetti che in alcuni casi come questo, cioè, non hanno almeno secondo noi non hanno veramente neanche senso di esistere, perché andare a pensare di aumentare un traffico merci, almeno da quello che dicono loro, perché sono girati anche dei numeri, cioè c'è chi dice 50 treni merci in più, chi ne dice addirittura 350, perché loro in realtà a livello di scenari se ne fanno vari, a livello di cosiddetti scenari strategici fatti da vari enti della regione, dello Stato, infrastrutture, eccetera. Qualcuno ha detto anche 300 treni di merci. Allora, pensare di far entrare dentro la metropoli, oramai fa quasi 3 anni a fine mese dalla tragedia che è successa a Viareggio proprio con i merci, far entrare altri 300 treni dentro la città è pure pericoloso, cioè è un qualcosa che... Cosa ti stai pensando? Perché farlo? Perché non pensare altro? E su questi territori, cioè, che già negli anni avevano provato a intavolare in alcuni casi anche delle richieste alle ferrovie, perché lì dei treni ce ne passano tanti, se uno si mette lì accanto, di treni in certi momenti della giornata ne passa uno ogni 5-6 minuti. È un continuo, e non ci stanno barriere antisuono, non ci stanno i tappetini quelli antivibrazioni. Era stato chiesto anni fa di interrarlo e le ferrovie dissero no, non si può interrare perché ci stanno i beni architettonici, archeologici, eccetera. E adesso invece questa cosa qui pare che non esista più, stanno facendo 2-3 scavetti archeologici per far vedere che cercano qualcosa, però vogliono portare avanti questo progetto. Tra l'altro, a proposito di scavi archeologici, che è quello che stanno facendo adesso, che è la cosa propedeutica al progetto che dovrebbero, almeno nelle loro tempistiche, presentare alla conferenza dei servizi ottobre-novembre, per poi, se va avanti, presentare un bando di gara pubblico che nell'arco di un anno deve far uscire fuori chi farà questo lavoro, mi sono un attimo perso. E appunto su questa cosa qui degli, per fare più ordine, loro non è che hanno adesso già iniziato a fare i lavori, appunto. Loro innanzitutto va detto che queste le ferrovie si vantano di essere state la prima società italiana, anche se non era obbligatorio come, come diceva la legge, da qualche anno, a essere i primi che comunque fanno sempre gli scavi archeologici per il bene della collettività. E quindi adesso in realtà poi c'è una legge, quindi obbliga più o meno tutti a fare degli scavi archeologici. Loro hanno iniziato questi scavi, che nella fattispecie, qui viene alle bugie dei municipi, questi scavi viene mandata la notifica ai municipi, al comune, ai vari uffici tecnici, i quali uffici tecnici pro forma autorizzano sempre. Quindi questa è, abbiamo incominciato a vedere, perché poi vabbè, il racconto lo seguiremo, però ci sono stati dei battibecchi appunto durante le lavorazioni di questi scavi, incominciato a uscire delle carte che erano firmate da alcuni presidenti del municipio, quindi decimo, sesto, nella fattispecie era il decimo municipio, e abbiamo visto che le firme risalivano a febbraio 2012. Ovviamente non è che uno arriva, chiede per fare uno scavo archeologico, l'autorizzazione arriva il giorno dopo, quindi è ovvio che si parla almeno di autorizzazioni di inizio anno. E quindi hanno iniziato con questi scavi che sono stati la preoccupazione, ha generato in là, in cui in alcune zone che risultano più o meno abbandonate, cioè sono terreni incolti e così, era stato più difficile capirlo, perché anche tra l'altro di semi pertinenza delle ferrovie. Il bubone è scoppiato quando appunto sono entrati nell'area cani di questo parchetto, quindi lì era inevitabile che qualcuno se ne accorgesse, chiudendo una buona tre quarti di questa metà del parchetto, e quindi quelli sono stati fermati. Un giorno le stesse persone che stavano lì hanno fermato le ruspe, e poi c'è da dire che appunto oltre a comunque due a dei territori che sono ricchi, dei municipi che sono ricchi di associazionismo di vario tipo, è stata dall'assemblea che è stata fatta al Carlo Moneta, è uscita fuori subito un'altra punta, un altro appuntamento di un'assemblea, chiamiamola popolare, chiamiamola di quartiere, dei tre municipi, come vogliamo, perché alla domenica successiva, quindi c'è un continuo cercare di rivedersi continuamente, e da lì si è partiti subito dicendo che bisognava stare dalla mattina per controllare che le ruspe non allargassero quantomeno gli scavi, ma anzi li ricoprissero. E quindi nei giorni successivi all'assemblea di venerdì, due venerdì fa appunto, che era stata fatta alla scuola, sono fatti una sorta di presidi di controllo a questi scavi, che hanno portato poi al giorno di martedì, mentre lunedì successivo a quell'assemblea hanno ricoperto dei buchi, il giorno dopo invece hanno continuato ad allargare, perché dicevano che avevano trovato qualche cosa di antico. Il che è anche probabile, ci mancherebbe, eccetera, però... Abbiamo visto, hanno proprio trovato un pezzo d'acquedotto. Hanno trovato un pezzo di acquedotto con un reticolato romano, insomma, è ovvio che le cronache ci raccontano che lì per fare uno scavo di sistemazione della metro uscì fuori un sarcofago, quindi c'è, nel senso, sono zone... Roma si espandeva, Roma antica si espandeva in quella lungo l'Appia, quindi è ovvio che qualcosa si trova... Poi passava proprio una strada che collegava dalla Via Latina fino a quella che adesso è la Casilina, facendo tutta una serie, c'era il sepolcro, quello dove sta il Monte del Grano, e ci stavano altri luoghi di sepolcro e ville, quindi comunque era una zona molto urbanizzata in quel tempo lì. E anche quindi... Perché diciamo che questa storia qui su questo territorio dell'Abbe della Merce è scesa veramente una cosa improvvisa che nessuno si aspettava. Invece è un territorio che più di un anno che c'è un'attenzione, c'è... su tutta una serie di scavi archeologici che erano comparsi oramai più di un anno fa, erano comparsi a poco dall'approvazione di quello che poi è stato il piano casa della regione, per cui tutta una serie di territori che stavano lì in attesa di poter avere delle autorizzazioni per costruire, dei costruttori eccetera, si sono attivati un anno fa, per cui è un territorio che è già aggredito sul lato della speculazione edilizia, anche in piccoli pezzi di territorio che fino adesso ne erano rimasti non costruiti. Ne avevamo parlato anche in radio alcuni mesi fa dell'episodio a Via Perestrello, Largo Perestrello, un pezzettino della Maranella, dove c'è un buco urbano, quello che viene chiamato da alcuni studiosi buco urban void, un buco urbano, un pezzo non costruito in mezzo a tutti i palazzoni, e lì ci sta lo speculatore edilizio che sono anni che prova a costruire e che ha riniziato a fare le fondamenta, i scavi archeologici poco prima di quella che è stata l'approvazione del piano casa, tra l'altro facendolo in un punto che non è un caso che non è stato costruito, perché lì c'era proprio la marrana, quella che sta pure nel film di Alberto Sordi, per capirsi, e come ho iniziato a scavare è iniziato a risgorgogliare l'acqua e non ci stanno riuscendo. Questo per dire che nell'ultimo anno questo territorio già è stato aggredito da quella che è stata un'accelerazione della speculazione edilizia in questa metropoli, che è stata data dal piano case. Il piano case, lo ricordiamo, è stata una legge nazionale poi messa in atto poi dalle varie regioni che l'hanno voluto fare, che aumenta la possibilità di costruire, di fatto dà la possibilità molto facile di fare cambi di destinazione d'uso, di aumentare le cubature e anche di costruire in territori dove prima non era costruito. Quindi questo territorio già aveva avuto questa accelerazione, e noi compagni del territorio, insieme a tante altre persone, ci eravamo iniziati a mobilitare su questo aspetto, e per cui già c'era un'attenzione su questo territorio, sull'aumento del cemento. In più ci sta questo bubbone che sta periodicamente riesplode, la parte di Torpignattara dove non è costruito, che è la parte dietro Villa De Santis, il cosiddetto comprensorio casilino, che adesso, visto che ci stanno elezioni fra un anno e devono prendere i soldi dai vari costruttori, come Veltroni fece il piano regolatore che ha regalato milioni e milioni di metri cubi alla speculazione edilizia di questa città, Alemanno sta a fare lo stesso, per cui sta accelerando alcune carte che erano rimaste bloccate in questi anni, per cui ci sta questo pezzo di territorio che non è urbanizzato fino adesso, che è quello che sta tra Torpignattara e il Casilino 23, Centocelle da una parte e Villa De Santis dall'altra, dove c'è questo progetto devastante di costruire 4.000 palazzine. Sì, la cosa proprio più grossa. In più poi ci sono tanti altri piccoli progetti di speculazione ovunque sia possibile. Sì, io volevo, sì, infatti hai fatto bene a ricordare che questi progetti e anche il nuovo piano regolatore comunque sono stati approvati dalle giunte cosiddette di centro-sinistra. Questo è bene ricordarlo, e fa capire anche il silenzio del PD rispetto al comprensorio casilino, al di là dei manifesti generici che girano, cioè in questa continua ma interrotta campagna elettorale per il quartiere e non solo. E fra l'altro all'assemblea, poi ne parleremo, che c'è stata mercoledì scorso all'Acqua Bulicante, che poi era in realtà non era un'assemblea ma era il pubblico che partecipava, è stato fatto bontà loro parlare per una mezz'oretta al Consiglio Municipale. L'ex assessora Adriana Spera ha esordito nel suo intervento dicendo: mi sono pentita di aver votato il piano regolatore. Dico, pensa un po'. Buongiorno. Io vi volevo chiedere però di ripetere un po' in che cosa consiste poi l'impatto ambientale effettivo di questo raddoppio della Roma Formia, cioè come va a incidere in questi tre municipi? Proprio nello specifico parte da Roma Casilina, che sta su via del Mandrione l'uscita, e dall'altra parte c'è la Certosa, e dovrebbe impattare dal lato del Mandrione, per cui dovrebbero distruggere una serie di costruzioni che stanno su via del Mandrione, tra cui una palestra che sta davanti all'ex fabbrica del Chinotto Neri e un po' di case. Da lì poi arrivare all'altezza del ponte su via de Porta Furba per allargare il ponte, perché lì c'è raddoppiarlo proprio il ponte. E poi da lì praticamente costeggia l'Accademia della Finanza e poi arriva all'altezza della salita della Tuscolana. Lì devono proprio rifare il ponte, rifacendo l'arcata e tutto, e quello è un lavoro grosso, perché si parla veramente di levare tanta terra, di metterci tanto cemento. Per capire, per chi non magari non ha questa linea ferroviaria, che è appunto dalla stazione Casilina, in un punto attraversa sopra la strada, poi si abbassa e passa sotto la Tuscolana, e quello lì è il lavoro molto grosso, perché devono allargare di fatto non proprio una galleria, un cavalcavia, insomma il treno passa sotto, un pezzo di vallo, e questo significherebbe, poi ce lo spiegavano proprio direttamente loro, che devono anche rifare tutti i piani statici della famosa salita del Quadraro, perché lì allargando il buco devono anche sistemare meglio poi la staticità. Poi dopo il pezzo sulla Tuscolana entrano dentro il quartiere di Tor Fiscale, e lì è l'impatto più devastante, perché si iniziano a dividere i binari Parte la bretella, da lì inizia a salire questo pezzo di binario nuovo, per cui adesso chi c'ha la ferrovia a 10 metri si ritroverà un muro a 5 metri, perché praticamente una linea deve arrivare al livello dell'altra, perché lì si iniziano a dividere all'interno del parco di Tor Fiscale, e quindi da lì inizia la costruzione di questo binario che piano piano sale e nell'arco di un paio di chilometri incontra l'altro binario all'altezza del ponte sull'Appia, su via del Quadraro. Per cui l'impatto proprio più devastante è all'altezza di Tor Fiscale, per cui da una parte ci vengono proprio delle case che si troveranno un muro davanti, dall'altra parte, che è la parte del Quadraretto, che è da verso Lucio Mario Perpetuo, invece ci saranno 10 metri di parchetto elevato, che vedendo quel parchetto vuol dire che lo distruggi. Tra l'altro un parchetto rimesso anche a posto dal comune negli ultimi anni, dopo la tragedia che è successa al bambino che morì con l'albero che cadde, il sindaco che venne, fece, ma no, mo ci sta il campo del basket, hanno rifatto bello, e questo dopo un paio d'anni l'hanno rifatto, lo vorrebbero distruggere. Cosa che ha detto proprio non ci stupisce, perché è un territorio che queste cose qui sono maestri, cioè proprio al Quadraro Vecchio c'è un pezzo di parco che dopo tanti anni, i giardini a via Filippo Re, il giardino dei ciliegi, dopo tanti anni di incuria è stato rimesso a posto, e l'anno dopo che fu rimesso a posto vennero i vigili a prendere misure, e subito, questo è successo una decina d'anni fa, subito il territorio si preoccupò, che misure state prendendo, volevano fare l'uscita dalla Guardia di Finanza, perché lì c'è una grossissima, l'ex sanatorio Ramazzini, che dall'uscita soltanto su via Porta Furba c'è una grossa accademia della finanza, e voleva fare un'uscita al Quadraro proprio nel parchetto che il comune aveva finito di rimettere a posto l'anno prima, cioè per cui veramente gli piace proprio levare i pezzi di territorio alle persone, che però per fortuna sono quelle cose che fanno anche più attivarle. È bello quello che stiamo vedendo dalla parte del Quadraretto, perché vediamo poi ci sono tutte le generazioni che stanno lottando contro quest'opera che vorrebbe levargli il pezzo di prato, cioè dai pensionati che passano la giornata là, ai ragazzetti che vanno a giocare a basket, cioè stavano proprio tutte le generazioni, perché è un pezzo di verde che è vissuto, anche che è un quartiere che ce n'ha bisogno, sì, che lì inizia a essere più densamente abitato con la parte del Quadraro. Il pezzo più vicino di verde, poi bisogna arrivare al parco degli acquedotti, San Policarpo per capirci, o se no la Caffarella, quindi sono quartieri densamente abitati e quindi ogni singolo spazio verde viene tenuto stretto. Tra l'altro il parchetto dei ciliegi adesso è stato poi dato in mano a una cooperativa che ha a che fare con il PD di zona, quindi, e continuano su questa cosa, sul tentativo sempre di rimettere in discussione tutte delle cose che erano invece state fermate nel passato, così come i vari cosiddetti spazi vuoti che magari possono essere in questa zona sia parchi abbandonati oppure semplicemente ex sfasci o discariche lasciate all'incuria, e tutte le volte ritornano con dei progetti sopra di costruzione, sempre per case e sempre con la scusa in molti casi di dire che sono fantomatiche case, parcheggio per l'edilizia popolare o per cose di questo tipo, che poi a vedere i bandi, a vedere le gare di costruzione, tutto sembrano e meno e tutto non hanno nessun aspetto, nessuna intenzione che siano poi case destinate all'utilizzo popolare o alla riassegnazione. E tra l'altro si parla anche di porzioni di territorio che delle volte sono di pezzi di, adesso non so come si può dire, che ne so, l'INPS piuttosto che altre cose di questo tipo, oppure porzioni di terra che sono magari legate a ex proprietari che avevano degli sfasci, eccetera, eccetera. A proposito degli sfasci, ci sta un pezzo di territorio che poi c'entra anche quello con la ferrovia, Via degli Angeli, che è il pezzo che sta tra il Quadraro e Vigna e Tor Pignattara. Degli Angeli è un pezzo che non è stato urbanizzato perché negli anni 50 costruirono il vallo per fare un progetto delineato, per cui ci stanno, c'è un buco che passa sotto Roma Casilina, che arriva fino quasi a via Assisi, che invece poi sbuca su via degli Angeli ed entra dentro quello che è il parco archeologico delle Centocelle. Costruirono soltanto il vallo, costruirono senza mettere i binari, che poi il progetto non fu più fatto, però nel piano regolatore in quegli anni quella zona lì era adibita per traffico ferroviario, per questo progetto che non è stato mai fatto, e quindi è rimasta una zona non urbanizzata quel pezzo lì, e negli anni si sono installati sfasci, fabbrichette d'edilizia, eccetera. Adesso invece che lì la metro non passa più perché 30 anni fa l'hanno fatta da un'altra parte, ci sta la voglia di ricostruire anche lì, cioè invece magari di faccio un pezzo di verde, no, anche lì vogliono costruire, per cui da una parte c'è la ricaduta di quello che era il vecchio piano di riqualificazione del Quadraro, che è una cosa che spinse sempre il centro-sinistra all'inizio a metà anni 90, che voleva dare la possibilità di aumentare le cubature, ma che fu ostacolato stesso anche fortemente da noi, che già stavamo sul territorio, e non fu portato avanti come progetto di riqualificazione con quell'impatto devastante, ma all'interno di questo progetto di riqualificazione che permetteva il consorzio tra piccoli proprietari di case per abbatterle, rifarle più grandi con l'aumento delle cubature, quindi là c'è stava l'inghippo di chi arrivava a quei soldi e finanziava la cosa per poi prendersi delle case e venderle, i piccoli proprietari sarebbero stati parcheggiati in delle case parcheggio e sarebbero state costruite ai margini del territorio del Quadraro proprio su Via degli Angeli. Mo la riqualificazione non c'è stata, questi consorzi non sono partiti, quindi per fortuna il Quadraro non ha visto, almeno la parte vecchia non ha vissuto questa distruzione in nome del profitto, però questo progetto a dicembre dell'anno scorso è ricicciato all'improvviso fuori, e tra dicembre, tra Natale e Capodanno praticamente è stato fatto un bando velocissimo vinto da sempre un qualcosa legato a Lega delle Cooperative, che Gianni aveva presentato tutto questo progetto l'EC una quindicina d'anni prima per fare edilizia residenziale pubblica, 101 alloggi nel punto dove adesso c'è lo sfascio all'incrocio tra Via degli Angeli e Via dei Centocelle, per capirsi chi c'è un attimo presente il territorio, lì c'è uno sfascio che dovrebbe essere elevato per costruirci questi 101 alloggi. Tra l'altro lì dall'altra parte ci sta l'aeronautica militare, che ha costruito migliaia di alloggi anche lì negli ultimi decenni, negli ultimi 15-20 anni, per cui c'è un territorio che nonostante abbia dei dati di densità abitativa impressionanti, cioè oramai lo dico pure su qualsiasi articolo che ho visto sul giornale che parlava di queste speculazioni, viene riportato che il sesto municipio se fosse comune sarebbe quello d'Europa con più densità di popolazione, superando Portici, Monaco e il Principato di Monaco eccetera. Questi vogliono continuare a costruire in nome dei loro profitti senza guardare in faccia nessuno. Sì, volevo aggiungere anche una cosa, ne parlate sicuramente meglio voi, che su questo progetto del raddoppio della linea ferroviaria non è stata fatta la VIA, cioè la valutazione di impatto ambientale, e fra l'altro anche c'è stata anche una presa di posizione del parco archeologico dell'Appia Antica, che sarebbe anche questo, diciamo, implicato in quest'opera, insomma, quindi questo è veramente incredibile. Perché il proseguimento poi di questa linea poi entra nel parco archeologico dell'Appia Antica, e quindi come ente interessato che hanno sentito in maniera preliminare per appunto autorizzazioni propedeutiche, perché poi ricordiamo che il progetto è così come l'abbiamo descritto, loro dicono che è solo teorico, poi dovrà seguire tutto l'iter, però mi sembra abbastanza dettagliato. Il parco dell'Appia Antica ha fatto notare che ovviamente qui si entra in enti che si contrastano tra di loro, e c'era che mancava lì la valutazione di impatto ambientale. Manca perché il Ministero delle Infrastrutture ha detto che non serviva, in quanto i lavori che verranno fatti sono sul territorio delle ferrovie. E quindi, siccome loro praticamente si allargano sul loro stesso territorio, non c'è bisogno di questo impatto perché più o meno tutto rimane come prima. E questa sicuramente sarà una cosa che verrà, si parlava, che verrà fatta notare. Poi proprio un inciso a proposito della risposta negativa data dall'ente parco dell'Appia Antica, è che l'ente parco dell'Appia Antica gli ha anche detto alle ferrovie: ma poi fateci capire, cioè i merci vanno a calare, lo dicono stesso loro, vanno a calare i merci, e poi avete anche un progetto che è quello della Gronda Sud, tant'è vero che dite che questo progetto della Bretella è un progetto temporaneo perché dovrà servire per pochi anni dalla sua ultimazione, perché nel 2020-2025 dovrebbe essere costruita la Gronda Sud, che è praticamente una grossa bretella ferroviaria che collega da Campoleone fino a Pomezia costeggiando la Roma Cassino, da Pomezia si stacca e va verso il raccordo, costeggia il raccordo per poi arrivare a Ponte Galeria. E quindi questo dovrebbe permettere di non far passare le merci all'interno di Roma con tutti i rischi, i pericoli e i disagi che vengono creati. Ma poi le merci, appunto, come dicevi, non passano più per ferro, viaggiano da te. Questa è stata una battaglia persa dalla sinistra, allora la sinistra era diversa dagli anni 70, quando appunto il traffico merci venne spostato tutto su gomma, perché il problema non è tanto di fare linee ferroviarie per far passare i treni, il problema delle merci, siccome non hanno le gambe come i passeggeri, devono avere delle infrastrutture, ci vogliono i piazzali merci per poi far arrivare e poi gli interporti, cioè deve essere un discorso coordinato. E questa linea fu abbandonata dalle Ferrovie dello Stato a vantaggio della Fiat, di Pirelli, diciamo, del traffico su gomma, già da 40 anni fa, per cui è del tutto irrisorio questa vicenda, insomma, messa così. Tra l'altro, a proposito di infrastrutture, di quello di cui avrebbe bisogno in merci, un'altra considerazione si faceva è che è stata devastata Italia con l'alta velocità. Ad esempio, a differenza dei 20-30 anni fa, c'è un'altra linea ferroviaria che collega Roma con Napoli, che è la linea ad alta velocità, ma che funziona solo del giorno. Perché c'è solo il traffico passeggeri? Perché non sono stati costruiti locomotori e il rotabile per poter portare le merci, e quindi c'è una linea ferroviaria che ha fatto dei danni per essere costruita, viene utilizzata per metà del tempo. Poi, tra l'altro, questa è un'altra considerazione, mentre nella propaganda dicono che alta velocità, alta capacità, poi di fatto sempre il merci viene rispostato su gomma, e sono, diciamo, sono proprio i dati quelli ufficiali dei cargo delle Ferrovie dello Stato, e che cala ogni anno di a due cifre, cioè per cui no, parliamo del 18-20% ogni anno che cala, a due cifre cala, per cui poi appunto, per sempre su questa questione della ferrovia, per magari fare un attimo il punto e chiudere su questo aspetto, diciamo, c'è il come sono andate avanti, diciamo, un po' sia le proteste che le cose. Ovviamente si cercherà di capire dove è possibile effettuare ricorsi, di quale tipo, come arrivare alla cosa fare quando verrà fatta questa conferenza dei servizi, e quindi verrà studiato tutto questo sistema qui. E dall'altra c'è stato appunto un incontro importante, diciamo, che martedì è venuto un rappresentante del gabinetto del sindaco, Lucarelli, un personaggio di spicco, insomma, visto che a leggere così, sfogliando rapidamente un po' di giornali vecchi, una bella personcina che proviene da ambienti ovviamente molto familiari al sindaco Alemanno, di estrema destra, eccetera, e fu, mi pare, un avviso di garanzia o comunque qualcosa aveva a che fare con lo scandalo Macbel, quindi vabbè, un personaggio importante da questo punto di vista. È venuto lui con i suoi portaborsi e a parlare con la popolazione proprio a questo parchetto, che è stato quindi una semiassemblea pubblica, in cui lui ha detto che il comune non sapeva niente, che adesso prendeva provvedimenti, che dal giorno dopo ci sarebbero stati vigili a controllare che non veniva fatto nessun accesso di ruspa ai cantieri, e che loro si impegnavano affinché questa cosa ci fosse un incontro tra di loro e le ferrovie per capire meglio la situazione, che però comunque, se le ferrovie si impuntano, ottengono autorizzazione del giudice, loro comunque possono entrare e ricominciare a fare tutto da capo. Quindi sostanzialmente martedì, della prossima settimana, ci sarà questo incontro in Campidoglio o in uno dei dipartimenti, adesso bisognerà cercare di capire, dove Ferrovie e Comune si incontreranno per parlare di questo lavoro. Lui ha espresso la contrarietà, poi a voce, per fortuna ci stanno video che testimoniano quello che ha detto, che ha la contrarietà del comune, quindi del sindaco in persona, rispetto a questo progetto e a tutte le devastazioni che deve fare. Fermo restando che, come lui sottolineava, poi in conferenza dei servizi, se devono alzare le mani, alzeranno le mani, perché gli intervengono poteri superiori, perché ricordiamo che questo progetto rientra in una serie di piccoli o medi grandi interventi sul territorio nazionale, e nella fattispecie approvato con le regioni, quindi non direttamente e questo rientra in un piano trasporti regionale, quindi diciamo che su quelle scartoffie non appare il comune, poi ovviamente su tutte le autorizzazioni il comune lo sa perfettamente, quindi martedì si vedrà. E prima di martedì ci si rivede sempre al parchetto di domenica alle ore 18, perché i cittadini non sono le persone, insomma, chiunque stava lì. Domani alle 18 al parchetto Nicolò Blois, a via Lucio Mario Perpetuo, ci sarà quest'altra successiva assemblea, perché gli abitanti non possono partecipare a questo incontro, né una delegazione, né possono portare qualcosa di scritto oppure avanzare delle richieste, eccetera. Sarà un incontro a porte chiuse tra Ferrovie e Comune. Questa cosa ovviamente non è che fa molto piacere, quindi domani sicuramente si discuterà di questo e si vedrà quali decisioni prendere. Nel mentre comunque i vigili sono andati lì, hanno controllato, hanno fatto in modo che non ci fossero le ruspe, ma non si sono proprio presentate, hanno controllato, poi sono messi a controllare l'arberi, le cose, i cancelli, quindi qualcosa da le macchine parcheggiate, poi quindi qualcosa loro lo trovano sempre, per giustificare la loro presenza. Quindi per il momento è tutto fermo. Da dopo martedì, quindi da mercoledì entrante, si vedrà come sarà la situazione, come evolve. Trattandosi poi di scavi archeologici, vedremo, insomma, la situazione per il momento è ferma, è di stallo, ma si vedrà, insomma, è una situazione abbastanza particolare. Per fortuna è stata presa all'inizio, ecco, diciamo così. Sì, comunque, insomma, prima di passare all'altro argomento e prenderci un po' di respiro, ovviamente va, ripetiamo l'invito agli ascoltatori a chiamare lo 06 49 17 50 e possiamo osservare che le chiacchiere tanto sono gratis e che comunque al di là di questo, se certamente se la strada dei ricorsi in qualsiasi istanza si ritenga opportuna, una strada comunque che va in ogni caso percorsa anche per, diciamo, vedere le carte dell'avversario, certamente la strada principale è quella della mobilitazione degli abitanti, insomma, che è, credo, forse l'unica che poi possa dare dei risultati. Sì, sicuramente, cioè, la questione dei ricorsi, così come è stato fatto martedì, che quando sono arrivate le ruspe si chiedevano tutte le autorizzazioni per entrare, eccetera, perché non c'era un cartello, insomma, proprio cavilli così che chiunque se ne poteva rendere conto, servono a far guadagnare tempo, perché su questo discorso serve guadagnare il più tempo possibile e cercare di non fargli devastare ulteriormente una zona che già c'ha parecchi problemi da quel punto di vista. Allora, prima di passare al secondo argomento, sempre con i compagni del Comitato di Lotta Quadraro, ci prendiamo un po' di respiro con un pochino di musica. If you're leaving, close the door. I'm not expecting people anymore. Hear me grieving, lying on the floor. Whether I'm drunk or dead, I really ain't too sure. I'm a blind. I'm a blind man, and my world is pale. When a blind man cries, Lord, you know there ain't a sadder tale. Thank you. Allora, 11.42, riprendiamo in diretta la trasmissione sulla cementificazione della zona di cui abbiamo raccontato con i compagni del Comitato di Lotta Quadraro. Una domanda che volevo fare, dopo che ci hanno delucidato abbastanza dettagliatamente del progetto in corso, quindi delle difficoltà e dei problemi e anche della popolazione che è cominciata immediatamente, si è resa conto e quindi iniziative spontanee si sono prodotte. Ecco, proprio su questo terreno, quali sono attualmente i livelli, diciamo, di auto-organizzazione della popolazione che si è opposta fin da subito a questo progetto, ovviamente tenendo conto di tutte le emissioni che sigle, partiti, partitini, associazioni varie cercheranno di mettere le mani su questa mobilitazione. Qual è lo stato, diciamo, dell'auto-organizzazione in questa lotta? Allora, lo stato attuale è stata sicuramente buona e alcuni passaggi sono passati, a cominciare da quello dei presidi la mattina presto davanti ai luoghi dei cantieri, passaggi che sono stati potuti effettuare perché si è spinto da parte sia del quartiere che anche da parte nostra, insomma, di cercare di rendere più pubbliche possibili le assemblee sul territorio. Per questo è stata ben accolta e almeno nel primo appuntamento, e crediamo anche domani, è stata molto ben partecipata questa assemblea direttamente al parco, e quindi lì c'è un modo, diciamo, più è ovviamente un'assemblea aperta, quindi abbiamo visto personaggi di qualsiasi tipo affacciarsi, prendere parola, garantire, fare promesse, dai Verdi a qualche altro partito di questo tipo qui, in cerca di voti e di raggiungere percentuali congrue per rappresentanze istituzionali. Quindi dentro questa assemblea vengono fatte delle proposte che poi vengono accolte, eccetera, e si ha riscontro immediato, come quella può essere dei presidi, per cui abbiamo trovato persone che si alzavano prima per venire al presidio, diciamo al presidio / picchetto, insomma, che poi andavano al lavoro, ci si dava il cambio, quindi in realtà c'è poi sì un'organizzazione spontanea di assistenza, ognuno a seconda dell'età, dei tempi che ha, dà il proprio apporto. Sicuramente questa cosa, a seconda di come proseguirà il progetto, andrà sicuramente più organizzata ancora di più. Non solo, il quartiere in questi ultimi giorni è stato riempito di tutta una serie di piccole locandine dei vari partiti alla ricerca dei voti, dall'IDV a Rifondazione, allo stesso PD, l'interrogazione che ha fatto Morassutte l'altro giorno, interrogazione parlamentare, E chi prova a rifarsi la verginità e chi invece cerca anche la notorietà, per cui sono comparsi anche i grillini, i 5 Stelle, che loro cercano un po' un palcoscenico. Dall'altra parte c'è sta chi questi territori li governa da 15-20 anni, li devasta, li mette in mano alla speculazione o alla gentrificazione, che è un altro aspetto. Mo viene da pensare al nono municipio, il nono municipio punta tanto sulla cultura, però la cultura in certi territori è il volano per poi permettere la speculazione. Cioè, abbiamo visto cosa è successo al Pigneto, cosa anche al Quadraro embrionalmente sta cercando di fare il PD, mentre 15 anni fa il PD proponeva aumento di cubatura, quel piano di particolareggiato accennavamo prima, adesso il PD di è molto diventato più ecocompatibile, non vuole più aumenti di cubature, vuole fare ostelli diffusi, vuole fare ecomusei, vuole comunque mettere a profitto i territori, perché pensano ai profitti, agli imprenditori, anche all'imprenditoria quella sociale, ai michetti loro delle associazioni che poi gli danno il posto di lavoro, eccetera, senza pensare invece a quelle che sono le esigenze dei territori, per cui il verde deve rimanere verde in quei territori, perché sono ultra urbanizzati, al di là poi del profitto che ci vuoi fare sopra dandolo in mano all'associazione amica tua, eccetera, perché sono dinamiche che sono forti in quei territori. E a volte anche la cultura purtroppo è un volano di questa speculazione. Cioè, a me viene proprio in mente l'esempio del Pigneto e anche quello che vorrebbero fare al Quadraro, che stanno iniziando ad aprire localetti, pubetti, eccetera. Quello che hanno fatto a Testaccio, quello che hanno fatto a Trastevere prima, ormai. Tra l'altro un'altra cosa, appunto, questo associazionismo che prende finanziamenti per murales in quartiere, piuttosto che mercatini di qualsiasi tipo, eccetera, o finte feste popolari, è quella parte che ovviamente spinge tantissimo sulle compensazioni. Cioè, la differenza sostanzialmente è questa: c'è una parte, appunto, legata, vuoi o non vuoi, seppur comunque semi-radicata nel territorio, che spinge già per un discorso di compensazioni. E facciamo una piccola spiegazione: cioè, stiamo dicendo la parola compensazioni, che è un po' una parola magica nell'amministrazione della metropoli negli ultimi anni, per cui, visto che hanno sempre meno fondi, sempre meno soldi, quelle poche cose che i municipi sui territori riescono a fare, a costruire per poi farsi belli alla prossima campagna elettorale, sono le cosiddette compensazioni. Praticamente loro danno la possibilità di costruire sui territori, dicendo agli imprenditori che costruiscono: tu fai questo scempio che farà un danno evidentemente al territorio, però lo compensi dando un qualcosa, e loro su quel qualcosa ci costruiscono la loro prossima campagna elettorale, la loro rete di amicizie, di interessi economici, eccetera. Per cui c'è questa parola magica, compensazioni, che significa questo. A Roma, nel caos della metropoli, a volte si capisce meno quello che succede, però anche Roma è incentrata sulle compensazioni. Nei comuni intorno a Roma c'è degli aspetti paradossali. Pensiamo al comune De Marino, che vorrebbe costruire un nuovo quartiere a Santa Maria delle Mole. Proprio su quest'opera delle compensazioni ci ha fatto urbanizzare il territorio, negli ultimi 20 anni è raddoppiata la popolazione, ma così un po' come tutto l'interland romano, perché poi no, la grossa speculazione edilizia fa sì che all'interno delle città della metropoli le case hanno dei pezzi proibitivi, e di fatto c'è un'espulsione dei settori proletari oltre il raccordo, no? Con condizioni di vita che vanno notevolmente a peggiorare, per cui no, fatti un'ora e mezzo di traffico ogni giorno, eccetera. Basta vedere i dati che stanno uscendo in questi giorni del censimento: i comuni intorno a Roma sono raddoppiati, sono aumentati del 20-30-40%, sia a Guidonia, che è diventato il terzo comune del Lazio, sia a Verstofiano, sia il comprensorio dei Castelli è continuato ad aumentare, e ci hanno ancora, tramite il piano case e tutto, hanno ancora voglia di aumentare di più l'urbanizzazione, con tutti i danni che ha avuto quel territorio. Ricordiamo che anche la questione dell'arsenico, poi ci sono delle trasmissioni radio che ne parlano settimanalmente, quindi su questa cosa, appunto, come si spiegava, delle compensazioni, poi viene meno il meccanismo, viene aumentato e accentuato il meccanismo della delega, che è quello che è la cosa che in questo tipo di lotte territoriali, ambientali, o comunque dove si manifesta una palese auto-organizzazione delle popolazioni, dei vari strati sociali, eccetera. Con la compensazione bisogna sempre andare a ricercare il personaggio di turno che tratta, che fa le cose, che in maniera tale che qualcuno ottenga più qualcosa rispetto a un altro, che può essere un servizio, parola magica per indicare qualsiasi cosa, dal centro commerciale all'ufficio della banca o le poste, perché questi sono tutti considerati servizi. E quindi è un meccanismo che, se fatta, è una cosa che, se fatta subito, stoppa completamente il discorso della lotta iniziale. Per non parlare poi dei meccanismi di assembleari, da organizzazione, che sono quelli che, insomma, uno cerca di... Anche perché si è visto da altre parti in Italia che funzionano, quindi... Poi, come il discorso, le compensazioni introducono già un meccanismo di alternativa al progetto stesso, e qui non c'è da porre alternative, cioè non spetta di porre un'alternativa su un progetto, su una cosa specifica. Ah, ma allora siete, volete il trasporto su gomma? No, perché poi sono queste le cose che ti dicono di contraltare. Sinceramente a noi non interessa un discorso d'alternativa, non ci si pone in questo, perché significa, almeno poi dal nostro punto di vista, credere che sia un interlocutore credibile l'istituzione in questo caso. E proprio su questa questione dei servizi, parola magica come quella di compensazioni, volevo andare al secondo argomento, visto che non abbiamo molto tempo ancora, che riguarda proprio lo stato delle cose nel progetto di cementificazione del comprensorio Casilino, a cui abbiamo accennato. C'è stata mercoledì scorso questo consiglio municipale aperto al pubblico, che ha potuto intervenire appunto per una mezz'oretta, e diciamo quello che si è detto da parte degli amministratori, fra l'altro dei consiglieri di centrodestra, va detto che appunto si parla di un progetto che dovrebbe riguardare una parte minima, almeno questo hanno detto, di palazzine, insomma di palazzi, quindi di edilizia abitativa, e invece una parte congrua di servizi. Sul comprensorio Casilino, appunto, ritornano in gioco il discorso della parola servizi. Per un po' di storia, come era stata fatta anche mercoledì in un approfondimento della radio su quel porzione di territorio del sesto municipio, era una zona che è completamente abbandonata, cioè non c'è il verde, c'è, ma è comunque lasciata al degrado, però comunque utilizzato bene o male. Ci sono dei vecchi casolari che sono fatiscenti, crollano eccetera, e nelle varie deroghe ai piani regolatori che furono fatte, per cui lì già dai tempi di Veltroni bisognava costruire, poi lui non firmò mai delle carte, quindi lasciò decadere questa cosa. Però evidente che se hanno fatto una fermata da metro e mezzo a nulla, invece che dove già ci stavano i palazzi, là vuol dire che qualcosa, anche perché metà dei terreni sono piperno, mentre invece l'altra metà dei terreni sono dell'AIC, che è legata alle leghe cooperative, che tra l'altro sul territorio ha costruito il Casilino 23, per cui la zona ridosso è Casilino 23, da una parte l'AIC che vuole continuare a costruire case, dall'altro il palazzinaro romano. Su questo caso, su questa del compensatore Casilino, c'è, diciamo, un dato particolare, che il ricorso non fu fatto, perché poi ovviamente questo piano regolatore decadé, no? Quindi non andava avanti questa cosa di continuare a costruire. Arrivarono delle varie sollecitazioni da parte del Ministero Ambientale, di quello dei beni culturali, che dicevano che non bisognava costruire, e quindi stoppò definitivamente questa cosa. I costruttori, quelli citati appena adesso, fecero ricorso al TAR e lo vinsero. Dopodiché, dopo ricorso al TAR, si può ricontro intervenire su un discorso sul Consiglio di Stato. Questa cosa non fu mai fatta, e questa cosa è notevole da fare, da sottolineare, perché comunque non fu mai pubblicizzato. Cioè tutte, diciamo, quelle associazioni che si sono interessate a questa cosa qui del comprensorio Casilino non fecero mai uscire pubblicamente con un discorso, con un intervento di massa nel territorio o con pressioni forti rispetto al municipio stesso, al comune, ma fu sempre lasciata diciamo un po' tra le aule di tribunale, un po' sperando appunto con un meccanismo di delega, magari anche in perfetta buona fede. Però ecco, se non si coinvolge la popolazione, non si collettivizza un problema, ecco lì che poi si assolvono da soli, no? E quindi si trovano la stessa soluzione, perché lì l'intenzione era quella di lasciare una parte magari sia a piccole edificazioni, una parte a servizio, una parte a ecomuseo. Su queste cose qui ovviamente poi ci si sono attaccati come su questi cavilli qui per continuare a costruire lì servizi, alla luce di quella che è quella zona lì, è quella di continuare a fare centri commerciali, cioè un quartiere, il Casilino 23, dietro quindi il comprensorio Casilino, che hanno cambiato i sensi di marcia, perché in maniera tale che tu, quando devi dalla Casilina andare a via la Primavera, insomma lasciando perdere le strade. Hanno, sei, aperto, due centri commerciali. Hanno aperto due centri commerciali, oh, e sei obbligato a passare davanti al centro commerciale per riprendere una strada. Quindi stiamo parlando di queste logiche. Siamo qui in una città che l'ultimo quartiere che è nato è Porta di Roma, che è costruito intorno al centro commerciale, cioè questo no, ci fa capire proprio che dinamiche vengono a livello urbanistica, sono in piedi. E quindi l'unica cosa che adesso rimane su questo, allo stato delle cose dei fatti, è che qui l'unica cosa è l'opposizione diretta a questa, a queste costruzioni. Vedremo poi se avranno i soldi, come andranno le gare, tutte queste cose qui, ma si arriva anche in ritardo rispetto a una lotta per bloccare questo tipo di progetto. Vedremo come si riuscirà ad andare avanti, però lì per lì questi, e poi ovviamente sono diversi un discorso di grandi opere come può essere le ferrovie o come invece una costruzione di cementificazione. E ricordiamo che poi qui si continuano, è un territorio, altre piccole anomalie che ci possono essere state nel territorio. C'era un casolare abbandonato che fu occupato su via di Porta Furba, che era l'ormai che non esiste più, Gatto Selvaggio, che era un locale di una vecchia villa di antichi splendori che, una volta andati a guardare le carte, il municipio sosteneva che doveva essere la residenza estiva di un centro anziani. Questa cosa era una bufala clamorosa, perché il proprietario aveva completamente la proprietà di quello stabile e ora sta nel degrado più totale, con una richiesta di vendita di 1 milione di euro giù di lì, non so se è trattabile o meno. E quindi queste sono poi come si muove il municipio e le cose, e su quello anche nessuno si mosse. Il fatto che venne occupato sollevò un problema, e il problema fu risolto con un discreto sgombero. Quindi anche su questo piano, quindi su quest'altro problema, la mobilitazione popolare stenta a partire, a differenza invece del primo problema, quello della linea ferroviaria. Sì, stenta tantissimo, perché su queste cose è anche oggettivamente più complicato, cioè finché non incominciano a vedere che parliamo di zone vuote dove fanno uno scavo, è una cosa in cui le persone normalmente, ma chiunque, anche noi che magari pensiamo di essere un po' più svegli, siamo abituati che aprono una buca, è una cosa normale. Quindi mentre lì si è trattato di sventrare un parchetto per ferrovie, capisci subito, poi c'è comunque la... su questo il TAV ha acceso la lampadina a tante persone da qualsiasi parte, perché sta parola è tornata sempre anche sul discorso della ferrovia, sui discorsi della cantieristica edilizia. Le persone sono abbastanza abituate, purtroppo, perché... Però è da dire che nell'ultimo anno noi sul territorio anche delle Torpignattare abbiamo fatto un minimo di mobilitazioni, di volantinaggi, striscioni eccetera, e vediamo che c'è una rispondenza almeno, sì, avete ragione, sì, non se ne può più, eccetera. Ma vediamo se quest'humus gli si potrà dare più gambe nei prossimi mesi, anche perché probabilmente si va all'accelerazione di alcune cose da una parte. Dall'altra parte magari alcuni progetti stiamo vedendo che forse stanno anche a fermare perché hanno meno soldi. Per cui forse magari una parte del scempio è proprio la crisi che stanno vivendo, l'economia capitalista che ovviamente rallenta alcune dinamiche di speculazione, anche perché ci hanno migliaia di case sfitte non vendute. Però questo è un bel volano per la ripresa, le opere pubbliche, visto che non possono fare la guerra, almeno qui in Europa per ora pare che non la possono fare, può darsi che domani ci ripensi. È chiaro che la ripresa, diciamo, delle grandi opere pubbliche è un respiro per l'economia così in decrescita come adesso, cioè in recessione in realtà. A proposito, proprio, sentivo proprio ieri, leggevo una cosa che a me mi ha colpito almeno, è la zona quella dove vorrebbero costruire, la zona ridosso anche di una zona di pregio archeologico, che lì ci stanno le catacombe di San Marcellino e Piero, il mausoleo di Elena, eccetera, eccetera. Praticamente sono dei beni archeologici che non sono fruibili al territorio, perché queste catacombe, tranne quando c'è la festa della parrocchia, sono chiuse tutto l'anno, e mo c'è un progetto del Vaticano di restaurarle, e i soldi li dà l'Azerbaigian. Proprio ieri è uscita fuori questa cosa. Io sento Azerbaigian, mi viene in mente Eleni, perché lì c'è sta Baku, l'unica cosa che sto da Azerbaigian è che una delle zone dove si produce più petrolio e dove passa del mondo. Qui è veramente strano che l'Azerbaigian prende dei soldi e li va a dare sulla casilina per rimettere a posto questa cosa insieme al Vaticano. Cioè, ieri sentivo questa cosa, non ci volevo credere, sono andato a cercare e trovavo conferma che sono anche miscredenti, fra l'altro. Soprattutto cini loro. Bene, esattamente le 11:59, quindi possiamo concludere questo primo approccio. Ovviamente seguiremo quasi quotidianamente, sperando che le mobilitazioni appunto ci diano materiale per riflettere, per ragionare, per seguire la lotta. Vi ringrazio, ringraziamo i compagni del Comitato di Lotta Quadraro. I prossimi appuntamenti, quindi dicevate, il prossimo appuntamento è domani domenica alle 18, esatto, al Parco Nicolò Blois in via Lucio Mario Bertone.